Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Una famiglia di 4 persone spende circa 800 euro l'anno per le mascherine e se le compra in farmacia scarica il 19%, se le compri al supermercato, se le compri da un'altra parte non hai la possibilità di scaricarle, ma dove li prendiamo tutti questi soldi in più? Io mi sono sposato con una donna extracomunitaria un anno fa. Ancora adesso lei non ha il permesso di soggiorno. Colpa del Covid, colpa della burocrazia. Mi hanno chiesto quanto guadagno, dove abito, quante mille cose. Allora, mia moglie non ha ancora il codice fiscale, la tessera sanitaria. Sposata con un italiano dopo un anno. Buongiorno Simone, volevo far presente a tutti i negazionisti della pandemia, a chi rifiuta l'utilizzo della mascherina, che non utilizzarla non è un momento di ribellione, che sei rock, punk, no, sei soltanto un egoista che non vuole bene nemmeno ai propri cari. Buon punto, il ragionamento sul convincere, ma qua si sta ragionando sull'imporre o meno. È necessario oppure no? È di questo che si sta discutendo. Sul costo delle mascherine sì, siamo d'accordo. Diciamoci la verità, ci sono anche quelle lavabili, sono anche quelle lavabili. Però state tranquilli, che tanto c'è il commissario Arcuri che vi abbassa i prezzi. Basta, non sorrido più, scusate. Beh sì, e poi l'ascoltatore ci segnalava di sua moglie. Guardi, il sistema dell'ottenimento della cittadinanza italiana e anche di qualche minimo diritto è assurdo anche per questo, anche da questo lato. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Siamo pieni di casi, ancora il grande tema, che diventerà un elemento di discussione politico inevitabilmente, di questi ragazzi che sono cresciuti in Italia e che, a differenza di Suarez, faticano molto di più ad ottenere la cittadinanza. È la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. È mercoledì 7 ottobre, sono le 7:22 minuti e 52 secondi. Rassegna stampa appunto con giornali che variano un po', sono prevalentemente concentrati sul tema Covid ovviamente. Se si fa eccezione per esempio per La Repubblica, che titola così: meno profughi, più lavoratori, la nuova Italia dei migranti. Mette giù un po' di numeri. Finora 24.000 arrivi, come nel 2018, dopo il picco di agosto, calano anche gli sbarchi dalla Tunisia. Corriere della Sera: sia la mascherina sempre con sé. Troppe assenze, slitta la stretta. È sul tema del Parlamento, che ieri ha mancato il numero legale, come sappiamo e vi abbiamo raccontato. Quotidiano Nazionale: deputati assenti, misure Covid in bilico. La Lombardia apre ai malati campani, è il titolo del giornale. Ma che spreco, l'ospedale in fiera aiuterà De Luca & Company. Tamponi e posti letto è emergenza, è il titolo della Stampa. E sul tema dei decreti Salvini titolano il Manifesto: quasi umani, luci e ombre delle nuove misure sull'immigrazione. E Avvenire: sicurezza umana, l'accoglienza degli immigrati torna regolata con seri percorsi di integrazione. E anche Libero: migranti, avanti, c'è posto, il governo spalanca le porte agli stranieri, è il titolo. Il Sole 24 Ore si dedica all'industria, industria decisiva per la ripartenza, perché ieri c'è stato questo appuntamento in associazione col Financial Times, nel quale sono stati ospitati vari ministri, Patuanelli allo sviluppo economico, De Micheli alle infrastrutture, Franceschini ai beni e alle attività culturali, e poi il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, Made in Italy Restart, e questo è il titolo dell'appuntamento. La verità, i ducetti scivolano sulle mascherine, giallorossi nel caos, pasticciano anche sul bavaglio, questo il titolo. E veniamo all'apertura della nostra rassegna stampa, che oggi però voglio dedicare, mi ci ha portato l'ascoltatore parlandomi delle mascherine e degli approvvigionamenti. Voglio ritornare su un tema che abbiamo già toccato con un pezzo del Sole 24 Ore nelle settimane scorse, e che è un po' il segnale di come funzionano a rilento certe cose. Ora, che sia come scrive Marcello Sorgi sulla Stampa, basti il titolo del suo editoriale, impreparati alla seconda ondata, o che sia una situazione un po' più morbida, nel senso che non siamo completamente preparati, fatto sta che il racconto di Paolo Russo a pagina 5 della Stampa ci dà un po' l'idea di come le cose funzionano a rilento certe volte, o non abbastanza rapidamente. È il caso, per esempio, delle terapie intensive aggiuntive, quelle che servirebbero a gestire una seconda ondata. Ora, qual è il punto? È che la fase 2 è iniziata, adesso vado a memoria, verso aprile, poi siamo entrati in fase 3, ma le prime gare per le nuove terapie intensive partiranno il 12 di ottobre. Sarà un po' tardi, forse? Chissà. A metà maggio il governo ci ha messo i soldi con il decreto rilancio, racconta Paolo Russo, e neanche pochi, 1,1 miliardi per trasformare quei letti di terapia intensiva messi su alla meglio durante i mesi più duri dell'emergenza in postazioni che rispettino standard di sicurezza e di strumentazione tecnologica necessaria ad assistere i pazienti più gravi. Siamo ad ottobre e di cantieri non se ne è aperto nemmeno uno in tutta Italia. E questo mentre la pressione sui nostri ospedali lentamente sale. Regioni e commissario Arcuri si sono rimpallati le responsabilità a lungo un'altra volta e sembra di essere tornati indietro di 3-4 mesi, prima di raggiungere un accordo che consentirà ora di procedere con gare di appalto a procedura semplificata, che significa tagliare di molto i tempi. Le regioni hanno inviato i loro piani di stabilizzazione dei posti letto di terapia intensiva solo da pochi giorni. Per questo le gare non sono ancora partite, spiegano gli uomini della struttura commissariale. Vedrete che su queste dichiarazioni si innesteranno, arriveranno quelle delle regioni che diranno: non è vero, l'abbiamo inviati prima, vi siete sbagliati. Struttura commissariale che ha fissato al 12 ottobre la deadline per presentare le offerte da parte delle aziende appaltatrici, e poi là partiranno i lavori per realizzare questi nuovi posti in terapia intensiva, e chissà quanto ci metteranno e quando arriveranno questi nuovi posti di terapia intensiva, chissà se in contemporanea col vaccino, i nuovi posti in terapia intensiva per il Covid, in contemporanea con il vaccino per il Covid, dico, ovviamente. C'è anche un problema di medici, la carenza di gestione, ci siamo occupati spesso anche di questo tema, la carenza sul fronte delle scuole di specializzazione, di programmazione, la mancanza di programmazione ancora una volta, perché è uno dei grandi problemi di questo paese, come ben sapete, fa sì che manchino, sostengono le associazioni e i sindacati dei medici, manchino almeno 3.000 rianimatori, 3.000 anestesisti e rianimatori. Questo è il quadro che ci consegna Paolo Russo a pagina 5 della Stampa. E visto che siamo sui temi Covid, vi do la seconda puntata dell'inchiesta della quale ci raccontava ieri il Messaggero. È una vicenda che arriva da Civitavecchia, che ha dei contorni veramente inquietanti, ossia una truffa che faceva sì che un uomo aveva fatto sottrarre alla sua compagna, che era un'infermiera a Civitavecchia, dei tamponi. si spacciava per medico e andava in giro per Civitavecchia e anche per Roma a fare tamponi a pagamento. Tamponi a pagamento che non esistevano, nel senso che lui faceva sì il tampone, ma questo tampone non veniva mai analizzato. E aveva della carta intestata dell'ospedale Spallanzani di Roma, l'aveva fotocopiata, l'aveva rifatta, non sappiamo esattamente cosa perché l'inchiesta è ancora agli inizi, nei quali attestava la negatività di queste persone. Ebbene, emerge il primo caso di persona in realtà positiva dopo aver fatto questo tampone che falsamente risultava negativo. La truffa di Civitavecchia, ci racconta Stefano Pettinari, negativo al finto tampone scopre di avere il virus. Un caso accertato tra le vittime dei due operatori sanitari e forse non è l'unico. Il sospetto qual è dunque? Che il medico abusivo abbia fatto il test in una struttura ancora più inquietante, in una struttura per anziani nella quale lavora. Abbia fatto questi tamponi in questa struttura per anziani. Tamponi dunque falsi, attestanti o almeno attestanti una negatività che è falsa, magari poi è vera, però i tamponi effettivi non sono stati fatti. Appunto, il falso medico, racconta Stefano Pettinari, ulteriore particolare inquietante, potrebbe aver utilizzato più volte lo stesso stick su più persone. Se così fosse, la cosa sarebbe di una pericolosità inaudita, perché magari quello stesso tampone potrebbe essere stato prima utilizzato su una persona positiva e poi su una negativa. Questo significherebbe che la seconda persona sarebbe stata ovviamente, sicuramente contagiata. Tutte persone che a questo punto ovviamente e naturalmente non sono state tracciate, cioè i loro contatti non sono stati tracciati. Una pausa. Mattino. La mascherina, ma se ci sono dalle città del sud, mi spiace dirlo, dove non sono mai riusciti a fargli mettere il casco una sola volta, dove non sono mai riusciti a non farli salire su motorini in 2, 3, 4, 5, 6 alla volta. E adesso cosa fanno? Gli danno i 1000 euro di multa se non mettono la mascherina? Ma dai! La mascherina, lo dice anche il costruttore, no? Dove sulla scatola delle mascherine c'è scritto caratteri cubitali, non protegge da eventuali virus o pandemie. Ammesso che questa sia una pandemia, ammesso che questo sia un virus che uccide. Una forma di sottomissione, di schiavismo, di dittatura sanitaria, mettetela come volete. Oltre che non servire a nulla, peggiora anche la nostra situazione respiratoria e non solo. Ci fa grossi, grossi danni. Ma quando ci obbligarono a tutti a mettere le cinture, si fece tutta questa confusione? No, cinture non si possono mettere, è un obbligo. Le mascherine vanno messe, ci hanno detto che servono per la nostra salute e mettiamocele, basta. Oh, no, non concordo con l'ascoltatore su tutto il discorso sul sud, quello il primo, eh. Una visione un po' grossier, è vero che su alcune cose c'è un minor rispetto delle regole, però non è vero, cioè nel mezzogiorno ci sono state tantissime persone, per esempio sulle mascherine c'è stato un rispetto piuttosto stretto delle regole in molte zone del mezzogiorno. Devo ricordare però all'ascoltatore che quando misero l'obbligo delle cinture ci fu esattamente questo stesso casino, chiedo scusa per l'espressione, così come quando si disse il casco è obbligatorio in motorino, stessa cosa, stiamo un po' allergici alle regole. Nessuno parlò di dittatura motorizzata, però ricordo molte proteste, i primi tempi vi ricordate che si cercava il modo di aggirare questo divieto, giravano anche le magliette, se ricordate, non so se le vedono ancora, le magliette, quelle con la cintura di sicurezza disegnata sopra per non farti beccare dai poliziotti, quindi in realtà è così. Le 7:39 minuti e 47 secondi, riprendiamo la nostra rassegna stampa. Vi sottopongo il buongiorno di Mattia Feltri di questa mattina, perché secondo me vi farà un po' discutere e sono sicuro che ci saranno opinioni diverse su questo. Scrive Mattia Feltri. A proposito, Lucia Azzolina non si è ancora dimessa? Non ha ancora risposto del disastro, del cataclisma, della bancarotta? Ora, io non ho nemmeno troppo da lamentarmi. Mio figlio alle medie è spossato perché deve tenere la mascherina per l'intera durata delle lezioni e mia figlia è distrutta perché è ancora senza banco e non sa dove appoggiarsi a riposare le stanche membra, ma mi sembrano disagi tollerabili. Non devo però farmi fuorviare da queste piccole parziali informazioni. La politica italiana ha un'opinione più complessa del lavoro del ministro dell'istruzione in vista del nuovo anno scolastico appena cominciato, le cui molteplici sfaccettature hanno impegnato un ricco vocabolario. Azzolina non sa gestire neppure un asilo, Azzolina è una sciagura, Azzolina è contro il diritto alla salute, Azzolina è incapace, Azzolina è un fantasma, con Azzolina il caos, Azzolina è una persona con problemi, Azzolina è indegna, Azzolina manda i nostri figli allo zoo, Azzolina è tragica, Azzolina è il peggior ministro della storia, Azzolina piagnucola, Azzolina non capisce una mazza, e questa è solo una frettolosa antologia. La mia critica preferita è: Azzolina vale zero. La trovo la più attinente. Infatti sono usciti dati sui contagi dopo 2 settimane di lezione. Studenti contagiati quasi 1500, cioè lo 0,02%. Insegnanti contagiati meno di 350, lo 0,04. Personale contagiato poco più di 100, lo 0,05. Ecco, Azzolina non vale 0, vale 0,0. Riconoscerle che ha fatto un buon lavoro sarebbe da gentiluomini, se ce ne fossero, scrive Mattia Feltri. Così, appunto, sulla ministra Azzolina. C'è tutta la questione, a proposito degli argomenti che abbiamo appena trattato, dei vaccini antinfluenzali in Lombardia. Lombardia che fatica ad approvvigionarsi. Qua le cifre variano incredibilmente, perché se il Messaggero ci racconta che la Lombardia sta per pagare il triplo i vaccini antinfluenzali, il Fatto Quotidiano parla del quintuplo addirittura. Fatto sta che un problema di approvvigionamento nella regione c'è, e lo racconta bene il Quotidiano Nazionale a pagina 6, con l'allarme dei medici che dicono non ci sono abbastanza dosi gratis, siamo costretti a selezionare i pazienti. L'assessore Gallera fa sapere che la campagna partirà subito dopo la prima metà di ottobre, tra palazzetti dello sport, palestre e centri civici, oltre agli studi medici. Assicura che la regione potrà contare su 3 milioni di vaccini. Il Veneto, con 5 milioni di abitanti, ne ha 1,2 milioni, e così l'Emilia Romagna. Noi, con 10 milioni, ne abbiamo già acquistati 2,4 milioni. Ci sarà un altro mezzo milione di vaccini in arrivo dalla 10ª gara di aggiudicazione, e poi ci sono altre dosi opzionate. Qua l'opposizione protesta, dice: per l'insipienza della giunta siamo con l'acqua alla gola. Lombardia che, come racconta il giornale in apertura, sta offrendo i posti Covid alla Campania nel caso ne avesse bisogno. Chissà quanto di come la Lombardia ha gestito la pandemia, o di come è stato percepito che la Lombardia abbia gestito la pandemia, non voglio entrare in questo perché il discorso sarebbe troppo complesso, chissà quanto tutto questo ha avuto un impatto sulle elezioni locali, sulle amministrative e anche sul voto per i sindaci, con un segnale che ci arriva proprio dal giornale di una voce critica all'interno della Lega, e non è la prima volta che è critica, che è quella di Giancarlo Giorgetti, e qua ci spostiamo un po' sulla politica, consentitemelo. In Lombardia abbiamo perso, Giorgetti spiazza Salvini. Il pezzo è un retroscena di Fabrizio De Feo a pagina 12 del giornale, che è un po' su questo, la politica è fatta così, si vince o si perde. Dire che abbiamo vinto in Lombardia non è vero, se abbiamo perso, abbiamo perso. Noi non siamo mica quelli che quando perdiamo diciamo che abbiamo vinto. Giancarlo Giorgetti continua nella sua offensiva di riposizionamento, con l'obiettivo di rimettere la Lega in connessione con l'area più moderata del centrodestra. Un lavoro che in alcuni frangenti può spiazzare lo stesso Matteo Salvini, ma che altri vedono come la dialettica tra due personaggi complementari. Uno portato a esprimere impeto ed energia, l'altro più schivo e razionale. Se un tempo le fughe in avanti venivano consumate dal leader della Lega nel campo sovranista, ora sembrano essere una prerogativa dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in una dinamica che Alberto Maggi definì su Affari Italiani della distonia costruttiva. Tutta una questione, appunto, interna alla Lega, che potrebbe portare la Lega verso un avvicinamento al Partito Popolare Europeo e un allontanamento dall'area sovranista. Cosa ancora sulla politica? Sicuramente il caos che c'è stato ieri alla Camera, del quale parlano in molti, la stessa Elisa Calesi che abbiamo ospitato poco fa su Libero, e racconta che la mancanza del numero legale è dovuta in gran parte al fatto che molti deputati erano in quarantena per questioni di Covid. Però fatto sta che ieri è mancato il numero legale dopo le comunicazioni del ministro Speranza, e quindi il prossimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà essere varato la settimana prossima, mentre la stretta sulle mascherine dovrebbe arrivare già oggi. Lina Palmerini sul Sole 24 Ore a pagina 8 avverte che gli errori della fase 1 rischiano di tornare. L'inizio di questa seconda probabile ondata di contagi comincia quasi come era cominciata la prima, con gli attacchi dell'opposizione sulla nuova proroga dello stato di emergenza, che sarà decisa nel Consiglio dei Ministri slittato a oggi, e con un caos parlamentare sui numeri, visto che alcuni parlamentari sono contagiati e altri in quarantena. Un film già visto, quello della mancata collaborazione tra maggioranza e opposizione, che ora trova un terreno di scontro pure sul via libera alla nota di aggiornamento del DEF, che per essere votata ha bisogno di una maggioranza qualificata. Ma è diventato complicato proprio per l'obbligo di isolamento che ha colpito i deputati. Una tensione che potrebbe generarsi anche tra le regioni e il governo, e anzi qualche segnale lo stiamo vedendo anche adesso, esattamente come era avvenuto in passato. Qual è il punto? Che Conte non deve ripetere gli stessi errori, dice Lina Palmerini. In particolare quello di generare confusione. Il primo è quello di generare confusione nelle regole, per esempio sulle mascherine. L'altro pericolo è fare il bis con le regioni e rivedere i duelli tra governatori del nord e del sud e con Palazzo Chigi. Infine, dopo una fase di iperprotagonismo culminata nelle sue conferenze stampa a reti unificate, ora ci si aspetta più Parlamento e meno Conte. Più decreti legge e meno decreti della Presidenza e il Consiglio dei Ministri. Il traffico. Sì, anche il decreto legge è un atto del governo, però il decreto legge deve comunque passare dal Parlamento e deve essere approvato dal Parlamento. Per chiudere il capitolo politico, vi voglio portare, rimaniamo sul giornale, va, pagina 13, il triste destino di Antonino Ingroia, l'ex PM sceso in politica più volte e con più formazioni politiche. Il titolo del giornale è feroce: l'ex PM Ingroia, eterno trombato, fa flop anche come sindaco. Se mai istituiranno un albo speciale dei trombati alle elezioni, allora sì, l'ex PM Antonio Ingroia avrebbe di sicuro il primo posto. Flop alle politiche del suo Rivoluzione Civile, con il quale si candidava a premier nel 2013, lo ricorderete. Flop anche del suo successivo Azione Civile. E siccome non c'è due senza tre, ecco l'ennesimo flop politico: la candidatura a sindaco di Campobello di Mazara, nel Trapanese, con una sua lista, Cambiamo Campobello. Che ironia della sorte per uno come lui, almeno il nome evoca il cambiamo del governatore ligure di centrodestra Giovanni Toti. A bocciare Ingroia, come sempre, gli elettori. Ha ottenuto il 18% contro il 67% del sindaco uscente riconfermato Giuseppe Castiglione. Ha vinto la paura, ha sentenziato lo stesso Ingroia. Ma alla smentita, sempre nel Trapanese, gli arriva a stretto giro da Favignana che ha eletto sindaco Francesco Forgione, ex deputato di Rifondazione Comunista ed ex presidente della commissione antimafia dal 2006 al 2008, ha vinto al primo turno con un rotondo 49,1%. Cosa ancora dai giornali? Vi direi che si parla moltissimo, o meglio, trovate la presenza su due giornali, su La Verità e su Corriere della Sera, della donna della quale abbiamo parlato ieri. Oh, sapete ormai che questa vicenda del Vaticano mi appassiona tantissimo, questa storia delle finanze vaticane, del cardinal Becciu estromesso per aver fatto questo uso allegro delle finanze, aver concesso, così sostiene la procura vaticana, prestiti al fratello, mentre addirittura si ipotizza che alcuni soldi siano partiti dal Vaticano per finanziare i testimoni del processo per pedofilia contro il cardinale Belle. Adesso, ieri era spuntata questa donna che è una stretta collaboratrice di, dello stesso Becciu, Cecilia Marogna, 39 anni, cagliaritana, lobbista, esperta di intelligence di tematiche internazionali, e ha avviato il rapporto con il cardinale Becciu nel 2015, dal quale ha ricevuto €500.000, racconta e si racconta e parla con il Corriere della Sera, risponde a qualche domanda. Rivendico il risultato di aver costruito una rete di relazioni in Africa e Medio Oriente per proteggere nunziature e missioni da rischi ambientali e da cellule terroristiche. E le chiedono: ma perché aprire una società in Slovenia se i rischi sono in Africa e in Medio Oriente? Ho aperto la società in Slovenia per motivi geopolitici, pensavo che la prossima polveriera sarebbe stata quella dei Balcani. Società slovena che secondo le carte pubblicate ieri dalle Iene, riprese oggi dal Corriere della Sera, sarebbe una società vuota. Come sapete, ieri era uscita fuori la vicenda delle borse acquistate, dei beni di lusso acquistati da questa donna con i soldi arrivati al cardinale Becciu, che dovevano servire in realtà proprio per costruire questa rete diplomatica. Venivano spesi in compensi professionali a me e ai miei collaboratori, in spostamenti, spese vive. Una grossa parte era quella rimasta su un conto poi chiuso per mancata movimentazione. I conti erano due, appoggiati sulla Unicredit di Lubiana, e le spese per borsette e poltrone di pelle? Ho comprato solo prodotti italiani, come se fosse una giustificazione. Ho comprato solo prodotti italiani, tipo tozze e poltrona Frau. Dopo tanto lavoro, penso di avere il diritto di comprarmi una poltrona. Vedremo come andrà a finire questa vicenda vaticana. Però veniamo a cose più italiane. Visto che tanto si parla di decreti sicurezza in queste ore, dei decreti Salvini, delle modifiche ai decreti Salvini, fatemi chiudere con qualcosa che non cambia mai, qualsiasi decreto venga fatto e qualsiasi norma venga fatta anche contro il caporalato, ed è il reportage di Antonio Maria Mira su Avvenire, a pagina 6, esattamente da Isola Capo Rizzuto, e racconta quello che succede vicino al CARA, al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto, da dove i migranti escono, vanno a dormire in capannoni abbandonati che dovevano essere di un consorzio del legno poi chiuso per infiltrazioni della mafia, che non ha mai prodotto nemmeno un trucciolo, e che poi la mattina vengono ovviamente presi dai caporali, vanno a lavorare nei campi, sfruttati e in nero per non più di €20 al giorno. Qualcuno ha un contratto, ma per 4 ore al giorno ne lavora 10. Raccolgono finocchi, ma anche altri ortaggi. Non potrebbero andarci restando al CARA? No. Uscire all'alba non è permesso, la sera sì. E poi i capannoni sono più vicini alla rotonda. Così escono dal CARA, restano fuori 48 ore, e questo è permesso. Rientrano per una notte e poi ritornano nei capannoni. Tutto consentito, purtroppo. Non va contro le regole, ma, scrive Antonio Maria Mira, contro la dignità umana. GR24, ci ritroviamo subito dopo con Paolo Mieli, e poi mascherine sì, mascherine no, ne parleremo con un medico che è anche deputato del Partito Democratico, e poi con il professor Bassetti, il quale dice no, le mascherine all'aperto non servono. A tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.